solo 3 minuti per parlarti di me. Forse basteranno a ricoprirti di bugie come se io dovessi mostrar di me quello che ancora no, non sono stato per convincerti. Ho 2 minuti, ancora 2 minuti, ma non li sprecherai per mentirti mai. Come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei, come sale per fidarti di me. Pensi basteranno a ricoprirmi di bugie come se tu dovessi saper di me quello che ancora no, non sono stato male per convincerti. Ho 2 minuti, ancora 2 minuti, ma non li sprecherai per mentirti mai. Come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei, come sale bianco brucerei le bugie che ogni giorno di poterti dire.